umiltà. Partiremo dalle letture di questo martedì di passione per parlare di divinizzazione, della possibilità cioè di vivere la vita stessa di Dio, ma imparando a distinguere la divinizzazione buona dalla divinizzazione cattiva. Parleremo pertanto di umiltà, perché è la virtù che ci aiuta a comprendere ad un tempo la nostra miseria e la nostra grandezza. La nostra miseria risalta in modo anche troppo evidente. Non mi riferisco ai limiti di natura, alle tante aspirazioni illusorie che portano l'uomo a fare dei progetti che non realizzerà mai, non fosse altro perché gliene mancherà il tempo. Penso a ciò che facciamo male, alle cadute, agli errori che potendo essere evitati, evitati non vengono. Di continuo sperimentiamo la nostra personale inefficacia. Ma a volte sembra che tutte queste cose si sommino insieme e si manifestino con maggiore evidenza. Allora ci rendiamo conto più che mai di essere ben poca cosa. Che fare? Expecta Dominum, spera nel Signore. Vivi di speranza, ci suggerisce la Chiesa con amore e con fede. Viriliter age, comportati virilmente. Che cosa importa essere creature di fango se la nostra speranza è riposta in Dio? Se in qualche momento un'anima sperimenta la caduta o fa un passo falso, non è necessario che succeda. Gli si dà il rimedio opportuno, come si fa abitualmente quando è in pericolo la salute fisica. Poi di nuovo in marcia. Non avete mai visto nelle famiglie quando si possiede un fragile oggetto di valore, un vaso per esempio, quanta attenzione si pone perché non si rompa? Affinché un giorno il bambino giocando non lo fa cadere per terra e il prezioso ricordo va in frantumi. Il dispiacere è grande, ma subito si provvede a riparare il vaso. Il vaso viene ricomposto, incollato con cura e alla fine l'oggetto appare più bello di prima. Ma se l'oggetto è di minor valore o semplicemente di terracotta, bastano alcuni punti di fil di ferro o di altro metallo per tenere insieme i pezzi. Il vaso, così riparato, acquista un incanto particolare. Cerchiamo di applicare tutto ciò alla nostra vita interiore. Di fronte alle nostre miserie, ai nostri peccati, di fronte ai nostri errori, anche se per grazia di Dio sono di poca importanza, ricorriamo alla preghiera e diciamo a Dio nostro Padre, Signore, alla mia povertà, alla mia fragilità, ai cocci di questo vaso rotto, metti qualche punto, ed io con il mio dolore e con il tuo perdono sarò più forte e più bello di prima. È una preghiera consolante da ripetere ogni volta che si rompe la povera terracotta di cui siamo fatti. Non possiamo meravigliarci di essere fragili, non possiamo rimanere stupiti vedendo che la nostra condotta si svia per un non nulla. Confidiamo nel Signore che ci offre sempre il suo aiuto. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Di nessuno. Parlando in questo modo, con il Padre Celeste, non avremo paura di niente e di nessuno. Per ascoltare Dio, se meditiamo la Sacra Scrittura, vedremo come l'unità è il requisito indispensabile per disporsi ad ascoltare Dio. La saggezza è presso gli umili, dice il libro dei Proverbi. Umiltà significa vederci come siamo, senza palliativi, secondo verità. Constatando la nostra pochezza, ci apriremo alla grandezza di Dio, e questa è la nostra grandezza. Lo comprendeva bene la Madonna, la Santa Madre di Gesù, la creatura più eccelsa fra quante sono esistite ed esisteranno sulla terra. Maria glorifica il potere di Dio che ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili e aggiunge che in lei si è realizzata ancora una volta questa divina volontà. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria si mostra santamente trasformata nel suo cuore purissimo di fronte all'umiltà di Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te tenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. L'umiltà della Vergine è conseguenza dell'insondabile abisso di grazia che si opera con l'incarnazione della seconda persona della Trinità Beatissima nel seno di sua madre, sempre Immacolata. Quando San Paolo allude a questo mistero, prorompe anche lui in un inno di giubilo che oggi possiamo assaporare attentamente. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua eguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Gesù, nostro Signore, ci propone con frequenza l'esempio della sua umiltà. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Così tu ed io impariamo che non c'è un altro cammino, perché solo la sincera conoscenza del nostro nulla ha la forza di attirare su di noi la grazia divina. Per noi Gesù venne a soffrire la fame e a dare cibo, venne a soffrire la sete e a dare da bere, venne rivestito della nostra mortalità e a rivestirci dell'immortalità, venne povero per farci ricchi. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili, insegna l'Apostolo Pietro. In ogni epoca, in ogni situazione umana, non esiste altra via per vivere una vita divina che quella dell'umiltà. Forse il Signore si compiace della nostra umiliazione? No. Che cosa guadagnerebbe con la nostra prostrazione colui che tutto ha creato, che regge e governa ciò che esiste? Dio desidera la nostra umiltà, lo svuotarci di noi stessi, unicamente perché Lui possa riempirci. Vuole che non gli poniamo ostacoli e che, per dirlo in modo umano, non ci sia più posto per la sua grazia nel nostro povero cuore, perché il Dio che ci ispira l'umiltà è lo stesso che trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Il Signore ci fa suoi, ci riempie di sé. Egli è colui che ci ottiene la divinizzazione buona. Il nemico, la superbia. Qual è l'ostacolo alla divinizzazione buona? È la superbia, il peccato capitale che conduce alla divinizzazione cattiva. La superbia induce a prestar fede, anche nelle questioni più insignificanti, all'inganno che Satana ordì ai danni dei nostri progenitori. Quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Nella scrittura si legge che il principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore. Tale vizio, se mette radici, perverte tutta l'esistenza dell'uomo, fino a diventare ciò che l'Apostolo Giovanni chiama superbia vitae, la superbia della vita. Superbia, di che cosa? La Sacra Scrittura impiega termini tragici e ironici allo stesso tempo per bollare la superbia. Perché mai si insuperbisce chi è a terra e cenere? Anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti. La malattia sembra leggera, il medico sorride. L'uomo che oggi è re, domani sarà morto. Quando l'orgoglio si impadronisce dell'anima, non è strano che legati l'uno all'altro gli vengano dietro tutti gli altri vizi: avarizia, intemperanza, invidia, ingiustizia. Il superbo tenta inutilmente di sbalzare dal suo trono Dio, misericordioso. Misericordioso con tutti e installarsi al suo posto, portando con sé tutta la sua crudeltà. Dobbiamo chiedere al Signore che non ci lasci cadere in questa tentazione. La superbia è il peggiore e il più ridicolo dei peccati. Se riesce ad irretire qualcuno con le sue multiformi allucinazioni, la persona soggiogata si riveste di apparenze, si riempie di vuoto, si gonfia come la rana della favola, piena di presunzione fino a scoppiare. Anche umanamente la superbia è sgradevole. Chi si considera superiore a tutti e a tutto non fa che contemplare se stesso e disprezzare gli altri, che lo ricambiano burlandosi della sua vanità. Sentiamo parlare di superbia e forse ci immaginiamo un agire dispotico, vessatorio. La folla che acclama, il vincitore che passa come un imperatore romano, piegando il capo sotto gli archi trionfali per timore di urtarvi la fonte gloriosa. Dobbiamo essere realisti. Tale genere di superbia trova posto soltanto in una fantasia malata. Dobbiamo lottare contro altre forme più sottili e più frequenti: l'orgoglio di anteporre la propria eccellenza a quella del prossimo, la vanità nelle conversazioni, nei pensieri e nei gesti, una suscettibilità quasi morbosa che si offende per parole e azioni del tutto inoffensive. Queste sì che possono essere e sono tentazioni comuni. Ci si considera il sole, il centro di coloro che ci sono accanto. Tutto deve ruotare intorno a noi. Non è raro che si ricorra con smania morbosa a simulare dolore, tristezza, malattia, perché gli altri si prendano cura di noi e ci vezzeggino. La maggior parte dei conflitti che sorgono nella vita interiore di molte persone sono un prodotto dell'immaginazione. Cosa hanno detto? Che cosa penseranno? Come mi considerano? E la povera anima soffre per triste vanità a causa di sospetti infondati. In questa avventura disgraziata la sua amarezza è continua ed è causa di disagio per gli altri. Tutto questo accade perché non sa essere umile, perché non ha imparato a dimenticare se stessa e a darsi generosamente al servizio degli altri per amore di Dio. Un asinello per trono. Ricorriamo ancora al Vangelo, specchiandoci in Gesù, nostro modello. Giacomo e Giovanni, per mezzo della loro madre, hanno chiesto a Gesù di sedere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Gli altri discepoli ne sono indignati. Che cosa risponde il Signore? Chi vuole essere grande fra di voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo fra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per servire, per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Un'altra occasione, i discepoli erano diretti a Cafarno, e forse Gesù, come altre volte, li precedeva. Quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso fra loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i 12 e disse loro: se uno di voi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Non vi entusiasma questo modo di agire di Gesù? Perché capiscono la sua dottrina, propone un esempio vivente. Chiama un bambino che correva per la casa, se lo stringe al petto. È il silenzio eloquente di Gesù nostro Signore. Ha già detto tutto. Egli ama coloro che si fanno come bambini. Poi aggiunge che il frutto della semplicità, dell'umiltà di spirito, è di poter abbracciare lui e il Padre che sta nei cieli. Quando si avvicina il momento della passione e Gesù vuole manifestare in modo espressivo la sua regalità, entra trionfalmente in Gerusalemme, cavalcando un asinello. Era scritto che il Messia doveva essere un re di umiltà. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, ed è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro di figlio di asina. Infine, durante l'ultima cena, quando Gesù ha preparato tutto per prendere commiato dei suoi discepoli, essi ancora una volta sono invischiati in una contesa su chi dovesse essere considerato il più grande in quel gruppo di prescelti. Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Di nuovo predica con l'esempio, con le opere. Di fronte ai discepoli che discutevano per motivi di superbia e di vanagloria, Gesù si umilia e compie lietamente la mansione del servitore. Poi, quando torna a tavola, commenta: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, signore e maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Mi commuove la delicatezza di Gesù, perché non dice: se io ho fatto questo, quanto più dovrete farlo voi. Si mette sullo stesso piano, non obbliga. Riprende amorosamente la mancanza di generosità di quegli uomini. Come i primi 12, così anche a noi il Signore può suggerire e suggerisce di continuo. Exemplum dedi vobis, vi ho dato un esempio di umiltà. Mi sono fatto servo, perché voi impariate con cuore umile e mite a servire tutti gli uomini. I frutti dell'umiltà. Quanto più sei grande, tanto più umiliati, così troverai grazie davanti al Signore. Se siamo umili, Dio non ci abbandonerà mai. Egli abbatte l'alterigia del superbo, ma soccorre gli umili. Egli libera l'innocente, questi sarà liberato per la purezza delle sue mani. L'infinita misericordia del Signore non tarda a venire in soccorso di chi lo invoca umilmente. E allora opera da par suo, come Dio onnipotente. Malgrado vi siano molti pericoli, benché l'anima si senta perseguitata, benché sia insidiata da ogni parte dai nemici della sua salvezza, non perirà. E ciò non è cosa d'altri tempi, avviene anche ora. Leggendo l'epistola della Messa immaginavo Daniele nella fossa dei leoni affamati e senza pessimismo, perché non posso dire che i tempi passati fossero migliori, ogni tempo è stato buono e cattivo. Pensavo che anche oggi ci sono molti leoni in libertà e noi dobbiamo viverci in mezzo. Leoni ruggenti che vanno in giro cercando chi divorare. Tanquam leo ruggens, circuit querens quendevoret. Come eviteremo queste fiere? Forse avverrà come a Daniele. Non sono miracolaio. Tuttavia amo la grandiosità di Dio e capisco che gli sarebbe stato più facile placare la fame del profeta o mettergli davanti del cibo. Ma non fece così. Dispose invece che giungesse miracolosamente dalla Giudea un altro profeta, Abacucco, per portargli il cibo. Volle operare un grande prodigio perché Daniele non si trovava in quella fossa per caso, ma per un'ingiustizia tramata dai seguaci del demonio, perché era servo di Dio e distruttore di idoli. Anche noi, senza azioni portentose, realizzando nella normalità di una semplice vita cristiana, una semina di pace e di gioia, dobbiamo distruggere molti idoli. Quello dell'incomprensione, quello dell'ingiustizia, quello dell'ignoranza, quello della pretesa sufficienza umana che volge orgogliosamente le spalle a Dio. Non timoriteri, non temete alcun male, anche se le circostanze in cui realizzate il vostro lavoro sono tremende, peggiori forse di quelle di Daniele nella fossa delle belve voraci. La mano di Dio è sempre possente, se fosse necessario opererebbe meraviglie. Siate fedeli. Vivete con amore, consapevolezza e allegria la vostra fedeltà alla dottrina di Cristo, persuasi che i nostri anni non sono peggiori di quelli dei tempi passati e che il Signore è lo stesso oggi e sempre. Ho conosciuto un anziano sacerdote che diceva di sé, sorridendo: «Io sono sempre tranquillo, tranquillo». Così anche noi, in mezzo al mondo, circondati da leoni affamati, non dobbiamo perdere la pace, tranquilli. Con amore, con fede, con speranza, senza dimenticare mai che se fosse necessario il Signore opererebbe miracoli. Vi ricordo che se siete sinceri, se vi mostrate tali quali siete, se vi divinizzate sul fondamento dell'umiltà e non della superbia, voi e io ci sentiremo sicuri in ogni ambiente. Potremmo chiamarci vincitori e parlare soltanto di vittorie, vittorie interiori dell'amore di Dio, che danno la serenità, la felicità dell'anima e la comprensione. L'umiltà ci spingerà a compiere grandi lavori, ma a condizione di non perdere la consapevolezza della nostra pochezza, la convinzione della nostra perenne indigenza. Ammetti senza esitazioni di essere un servitore che deve compiere numerosi servizi. Non ti vantare di essere chiamato figlio di Dio. Riconosciamo la grazia, ma non dimentichiamo la nostra natura. Non ti inorgoglire se hai servito bene, perché hai fatto quello che dovevi. Il sole compie il suo corso, la luna obbedisce, gli angeli eseguono le loro missioni. Lo strumento eletto dal Signore per i gentili dice: «Sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Tantomeno noi pretendiamo di essere elogiati per noi stessi, e cioè per i nostri miseri meriti». Umiltà e gioia. Liberami dall'uomo iniquo e fallace che è in me. Ancora una volta il testo della Messa ci parla della divinizzazione buona. Esso mette in evidenza ai nostri occhi la pasta cattiva di cui siamo fatti, con le sue malvagie inclinazioni. Poi ci esorta ad esclamare: «Emittem lucem tuam», fa splendere la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi al tuo monte santo. Non mi rincresce dirvi che sono commosso recitando le parole al graduale. Come dobbiamo comportarci per ottenere la divinizzazione buona? Nel Vangelo leggiamo che Gesù non voleva più andare per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Lui, che con un atto della sua volontà poteva distruggere i suoi nemici, non rifugge invece ai mezzi umani. Lui, che era Dio, e a cui bastava una decisione per cambiare le circostanze, ci ha lasciato una lezione incantevole. Non andò in Giudea. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che fai». Desideravano che desse spettacolo. Non vedete che è tutta una lezione sulla divinizzazione buona e su quella cattiva? Divinizzazione buona. Confidino in te, canta l'offertorio, Quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore? E tutto è gioia in questo vaso di terracotta pieno di frutti, perché egli non dimentica il grido degli afflitti, la preghiera degli umili. Non date credito a coloro che presentano la virtù dell'umiltà come una menomazione dell'uomo e come una perpetua condanna alla tristezza. Sentirsi di terracotta, riparata con dei punti, è fonte di continua gioia. Significa riconoscersi ben poca cosa di fronte a Dio. Bambino, figlio, c'è felicità più grande di quella di colui che, povero e debole, sa però di essere figlio di Dio? Perché invece gli uomini sono tristi? Perché la vita sulla terra non si svolge come essi personalmente sperano? Perché sorgono ostacoli che impediscono o rendono difficile la soddisfazione delle loro pretese? Nulla di tutto questo avviene quando l'anima vive la realtà soprannaturale della filiazione divina. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Siano tristi, ripeto da sempre, coloro che si ostinano a non riconoscersi figli di Dio. Per concluderci, facciamo suggerire dalla liturgia odierna due suppliche che devono prorompere ardenti dalla nostra bocca e dal nostro cuore. Dio Onnipotente, la partecipazione a questi divini misteri ci dia la grazia di meritare i doni celesti. E ancora, ti preghiamo, Signore, di concederci di servirti costantemente secondo la tua volontà. Servire, figli miei, servire è il nostro compito. Essere servitori di tutti perché vi si accresca il numero e in virtù il popolo fedele. Guardate Maria, mai creatura si è data con più umiltà alla volontà di Dio, l'umiltà dell'ancilla Domini, della serva del Signore. È il motivo per cui l'invochiamo come causa della nostra letizia, causa della nostra gioia. Eva, dopo aver peccato per volere dalla sua follia darsi a farsi simile a Dio, si nascondeva davanti al Signore piena di vergogna. Era triste. Maria, proclamandosi serva del Signore, diviene madre del Verbo divino e si riempie di letizia. Che la sua gioia di madre buona metta radici in tutti noi. Cerchiamo come figli di assomigliarle e così assomiglieremo di più a Cristo.